Ciao a tutte e tutti, siamo in diretta dal Festival Alta Felicità in Val Susa. Oggi il primo giorno di questa 3 giorni di festival di lotta in mezzo alle montagne per la difesa delle montagne contro la grande opera inutile, dannosa e sempre più foriera di militarizzazione, di violenza, di devastazione che è il TAV. Noi oggi siamo qua per appunto portare un contributo al festival come Radio Blackout e questo contributo parlerà di un'altra grande lotta territoriale che si trova in un posto molto distante da noi per quanto riguarda la geografia, ma non così tanto per quanto riguarda i principi e anche, diciamo, la passione della lotta e la volontà di assicurare al proprio popolo una vita più che dignitosa, una vita bella all'interno dei propri territori. E siamo qua, compagne, a gestire questa diretta che faremo tra poco. Ciao, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua in diretta dall'Alta Felicità, dallo studio mobile di Radio Blackout. Buongiorno a tutte e tutti, e dai. Allora, intanto apriamo con una canzone che parla già di quello che andremo appunto a trattare con questa diretta, che sarà, ve lo diciamo già. Sì, sarà una diretta con dei compagni che si collegheranno dalle terre liberate del Cauca in Colombia, una regione limitrofa alla città di Cali, diciamo, e dei compagni che da una decina di anni portano avanti un processo di liberazione di un territorio che era stato usurpato dalle multinazionali della canna da zucchero negli ultimi, diciamo, 70 anni, ma già dal 1500 gli era stato sottratto dall'occupazione coloniale spagnola. E quindi intanto iniziamo con un po' di musica. Un po' di problemi tecnici. Questo pezzo che si chiama Questo che scrive, sì, parlava appunto, è un pezzo di questa popolazione, di questa comunità Nasa che si trova nel nord del Cauca, in Colombia. La Colombia, ricordiamo come molti altri paesi dell'America Latina, è un paese in cui vivono e convivono moltissime comunità di popoli originari, comunità che nel tempo sono state fortemente ostacolate nella loro vita da colonizzazione, governi nazionali, paramilitarismo, narcotraffico e insomma, diciamo, chiunque avesse un interesse, no, a sfruttare e a espropriare i territori del Latino America, che sono al centro di una battaglia estrattivista molto forte in questo momento. E la comunità Nasa è una di quelle comunità che ha lottato in maniera, diciamo, più forte, può costituire anche un po' un'avanguardia, no? Dal punto di vista delle lotte territoriali per la riappropriazione del proprio territorio, perché diciamo, desplazada sulle montagne, cioè desplazada sarebbe praticamente spinta, respinta sulle montagne in epoca post-coloniale, nel 2014 ha deciso di scendere dalle montagne del nord del Cauca per riprendersi quelle terre che erano state date in mano a grandi multinazionali della canna da zucchero, quindi della monocoltivazione della canna da zucchero, ovviamente a scopo di sfruttamento del terreno, profitto delle aziende e di poche persone molto ricche che sono a capo di queste aziende, e con anche degli effetti devastanti proprio sul terreno e sull'ecosistema, quello che la comunità NASA chiama la madre terra. Sì, esatto. Quindi, se il popolo NASA era già un popolo che si era organizzato primariamente con l'arrivo degli spagnoli, quindi attorno al 1530, sotto una leader indigena, la Cacica Gaetana, e quindi ha tutta una storia di liberazione, di resistenza. È stato poi negli anni 70 che si è formalizzata una resistenza un po' più strutturata sotto il CRIC, che è il Consejo Regional Indígena del Cauca, e che riunisce non solo il popolo Nasa, ma tutti i popoli indigeni, molti dei popoli indigeni del territorio del Cauca. E già quindi dagli anni 70 hanno iniziato un processo di recupero della terra allo Stato o ai gruppi paramilitari o del narcotraffico. E poi, appunto, dal 2014 che ha avuto inizio il processo di liberazione della madre terra con un approccio estremamente radicale, anticapitalista, cercando il sostegno della solidarietà internazionalista, appoggiandosi quindi anche, cioè, facendo rete con altri processi di liberazione in altri territori in giro per il mondo. E abbiamo avuto appunto la possibilità di conoscere un po' di compagne e compagni che stanno in questi territori, che ci racconteranno meglio quali sono state le pratiche, quali sono state i valori fondanti di quella la loro realtà. Il territorio liberato dai compagni è molto vasto, però ci racconteranno loro meglio la loro esperienza. Quindi adesso mandiamo ancora un po' di musica e poi ci connettiamo con i compagni. Bagaj de ba Wala we chak you ka bek do ai de usto Bagaj de ba Bagaj de ba Qué lindo es quererte por mi pueblo que habita en mí Qué lindo es quererte quererte por mi pueblo que habita en mí. Siento el querer, hermanos, somos los que aquí estamos hasta morir. Siento el querer, hermanos, somos los que aquí estamos hasta morir, hasta morir. Quai juste, ma cacci te va, uso neque. Quai spin de nis, no tengo neque. Dice i mette, tu caisa, di puna uso nucao. Cha cha! Zatek wechan wajin uste Weshki wes wen gita ona Zatek wechan wajin uste Wala wechat hiuka piek nau aite ustau Bakach te ba Wala wechat hiuka piek nau aite ustau Bakach te ba Te va. Qué lindo es quererte por mi pueblo que habita en mí. Qué lindo es quererte por mi pueblo que habita en mí. Siento el querer, hermanos, somos los que aquí estamos hasta morir. Siento el querer, hermanos, somos los que aquí estamos hasta morir, hasta morir. Thank you. quien ya sabe que para el pueblo no hay paz. Mi palomita está llorando, paloma, porque ya sabe que para el pueblo no hay paz. Paz y paz, ay, ay, ay, porque ya sabe que 105.250 in diretta su Radio Blackout. Abbiamo il piacere di avere in diretta qui al Festival dell'Alta Felicità compagni e compagne dal nord del Cauca, dai territori della Liberación, compagni che hanno lottato tantissimo per riappropriarsi delle terre, e in questo senso generano una consonanza con la lotta No TAV qui in valle. Ora siamo connessi con loro e sentiamo se riusciamo a parlarci. Hola, nos escucha? Sì, di acá di Corinto stiamo escuchando perfettamente. Sí, de acá también estamos escuchando. Ah, qué bien. Qué bueno escucharlas así bien desde aquí. Súper bien. Bueno, tenemos más personas conectadas. Habíamos più persone collegate. Disculpe, como nosotros hablamos un poco en español y después hacemos la traducción por la gente que está aquí escuchándovos y... Y bueno, así que cuando ustedes hablan, tienen que parar cada un poco de minutos, sí, porque tenemos que hacer la traducción en italiano, ¿sí? Perfectamente. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, allora, la primera... una presentazione, no? Sì, intanto chiediamo ai compagni connessi se si possono presentare, se possono un po' raccontarci chi sono, da dove vengono e fare un'introduzione. Compañeros, les pregunto si nos puedes si se pueden presentar y si pueden contarnos un poco de dónde llaman. Listo, pueden, nos escuchan, si nos escuchan pueden empezar. Buenos días de nuevo. ¿Sí? Bueno. Pueden hablar. Bueno, buenos días. Hora acá colombiana, buenas tardes allá en su país. Desde acá de un punto del proceso de liberación en el norte del Cauca, Corinto especialmente, los saludamos acá en nombre de los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra, León, y también está acompañándonos Ana. Buongiorno per noi dalle nostre geografie, buon pomeriggio per voi, vi chiamiamo da un punto della liberazione, nello specifico Corinto, e qui vi parla il compagno Leon e la compagnera Anna. Puoi seguire, Leon. Hola, muy buenos días, compañeros, a todos, saludándolos desde acá del norte del... Saludándolos desde acá del norte del Cauca, Ana Julia, con ustedes participando en este hermoso momento de comunicación. Buongiorno, qui dal nord del Cauca, Ana Julia, vi salutiamo dal processo di liberazione. Siguiente. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha allá en Italia a través de esta red de emisora. Les saludamos desde Caloto, es otro territorio cercano, vecino aquí de Corinto. Estamos muy cerca, pero hacemos parte de la liberación de la Madre Tierra en un territorio indígena que se llama Huellas. Es un territorio indígena que viene también haciendo la lucha por liberar la Madre Tierra. Ci salutano da Caloto, vicino a Corinto, da un territorio che si chiama Huellas, che fa parte del processo di liberazione della Madre Terra. Muchas gracias, compañeros. Y seguimos con la primera domanda, que ahora hagamos en italiano y hacemos la traducción. Allora, chiediamo ai compagni e alle compagne collegate con noi in questo momento che cos'è il processo di liberazione della madre terra, quando è iniziato e perché è iniziato. Vale, preguntamos a los compañeros conectados si nos pueden contar qué es el proceso de liberación de la madre tierra y cuándo empezó y eso. Bueno, vamos a hablar en de diferentes momentos, pero de nuevo quiero saludar realmente a todos los que nos están escuchando a través de los diferentes medios radiales y otros medios allá en Italia y muy seguramente a nivel del mundo. El proceso de liberación de la madre tierra ha sido histórico y es desde el mismo momento, la lucha por la tierra es del mismo momento en que nos comienzan a invadir y ha tenido pues varios momentos, ¿no? Y se han hecho como algunos recesos y vuelve y se comienza, pero ya realmente en 1971, cuando muchos mayores comenzaron a pensar realmente que si no se hacía nada, entonces, bueno, ¿qué se iba a pasar para la descendencia? Porque para los pueblos originarios, realmente la tierra es la vida, es lo más importante después de la comida, es la vida, y para tener la comida hay que tener la tierra. Entonces, se organizan después de muchos años de pensar, de mirar estrategias. Entonces, se organiza el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Y el primer punto de una Espera proyección un ratito. Política, de una apuesta política Leona. es la tierra. Compañero, y aquí compañero, se revisó la tierra en manos de quién está y cómo se perdió la tierra. Y entonces lo que se plantea como estrategia es que la tierra debe ser colectiva y hay que recuperar la tierra que fueron de nuestros ancestros, que nos lo arrebataron y hay que convertirla en colectiva. Entonces, el primer punto de la plataforma de lucha del CRIC dice recuperar las tierras y constituir las resguardos. Eso es ser colectivos, para nunca jamás volvernos a perder, que nos lo vuelvan a quitar. Bueno, esa es una lucha. Y de ahí se comienza el proceso que hoy llamamos liberación, comienza como recuperación. Bueno, yo iría ahí y le abría el espacio a los otros compañeros. Il compagno Leon ci dice che saluta nuovamente chi ci sta ascoltando qui in Italia, nel mondo e nei vari canali che abbiamo a disposizione. E il processo di liberazione della madre terra ha avuto diverse fasi, è iniziato nello stesso momento dell'invasione, ma è nel 1971 che le persone anziane, le persone più grandi si sono rese conto che se non si fosse fatto nulla, se non si fosse agito in quel momento, le generazioni future sarebbero rimaste senza terra. Per loro la terra è vita, la terra dà cibo e senza terra appunto non c'è futuro. Quindi si sono organizzati e hanno pianificato appunto diverse strategie. In quel momento hanno fondato il CRIC, il Consiglio Regionale Indigeno del Cauca, e da lì appunto hanno deciso insomma che la strategia, il primo punto della loro strategia era quella di recuperare la terra e di renderla collettiva. Infatti insomma quello della terra e della collettivizzazione della terra è il primo punto della piattaforma del CRIC. Puede seguir? Hola. Hola. Bueno, sí, en el como lo ha dicho el compañero León, es parte de la lucha por la tierra, la necesidad de la tierra que han tenido las comunidades, pero también de recuperar un territorio que ya les pertenecía y que había sido arrebatado, que había sido usurpado por los grandes ricos de Colombia, por la oligarquía. Y hoy en día, cuando hablamos de liberación de la madre tierra, también hablamos de la necesidad de la tierra porque las familias han ido creciendo y no hay dónde trabajar. En Colombia la tierra está acaparada por grandes terratenientes que tienen más del 60% de la tierra, el 4% de la población, tiene el 0.4% de la población tiene más del 60% de la tierra en Colombia, mientras que en el departamento del Cauca, una familia... No te escuchamos más. La necesidad también, y es que la tierra está enferma, la tierra está esclavizada por el capitalismo, por las grandes plantaciones, por la agroindustria, por la minería. Entonces, a esa enfermedad que le llamamos capitalismo, es necesario sanar la madre tierra o sanarnos con la madre tierra porque también nos hemos contaminado y es lo que llamamos liberación de la madre tierra, como empezar a dejar, a no permitir que siga siendo esclavizada y entrar en grandes plantaciones de caña de azúcar en el caso del norte del Cauca para empezar a sanar la madre tierra y es lo que en parte es mucho más, pero es lo que en parte llamamos liberación de la madre tierra. Ok, gracias. ¿Hacemos la traducción de esto? Appunto la parte della lotta per la terra nasce dalla necessità, dall'evidenza del fatto che non c'è più terra, le famiglie si stanno allargando con le generazioni, la terra è sempre meno e in Colombia il 60% della terra è posseduta dallo 0,4% delle persone di un'oligarchia molto, molto ristretta e l'altra necessità è quella del fatto che la terra sia ammalata, e ammalata dallo sfruttamento, dall'agroindustria, ammalata di capitalismo e che il processo di liberazione è un processo per sanarla, per... Sì, non sì, esiste sì. Una vera e propria traduzione. Per recuperarla, sì, però diciamo per... cioè recuperare in un certo senso l'integrità, no? Sì, anche proprio a livello terra. Fisico, bio-organico, esattamente. Quindi la necessità di questo recupero che va appunto al di là di una cosa metaforica, cioè un vero e proprio ristabilimento ecosistemico e per farlo appunto entrano all'interno delle piantagioni di canna da zucchero e recuperano le terre, e recuperando le terre sanano le terre e sanano anche le loro comunità. Puede seguir. Si nos escucha, puede seguir hablando. Adelante, Mauro. Sí, sí. Bueno, sí. Entonces, en esta lucha de los últimos 10 años, desde 2015, se han logrado liberar 12.000 hectáreas de tierra, más de 12.000. Y eso es con la lucha de las familias que hacemos parte de la liberación de la madre tierra. Entonces, lo que se ha hecho es entrar en las grandes plantaciones de caña de azúcar, de la agroindustria de la caña de azúcar, para ir extinguiendo esa caña, que es un monocultivo que hace daño a la tierra, y a cambio empezar a hacer otra forma de vida en esas tierras. Así es como hemos caminado en los últimos años, y es la forma como esta comunidad interpreta lo que es la lucha necesaria para ir sanando la madre tierra en este rincón del planeta. Y hemos dicho es a través de la lucha directa. Nosotros no hablamos necesariamente de la negociación, no pensamos que los ricos van a tener gestos de bondad con la gente, ni menos con la madre tierra. Entonces es necesario entrar directamente y hacer hacer la lucha, así directa. Siempre el movimiento indígena ha logrado sus, digamos, sus grandes conquistas a través de la lucha directa, pero en algunos momentos el movimiento se ha ido yendo también, que también en los escritorios, que también en las oficinas se puede ganar la lucha, pero consideramos que aunque se han logrado algunas cosas y parte del movimiento va por allí, en la liberación de la madre tierra consideramos que la lucha es directa. Gracias, perfecto. Seguimos con la traducción. Sì, da 10 anni a questa parte, quindi dal 2015, sono stati liberati circa 12.000 ettari attraverso appunto la lotta delle famiglie della liberazione che sono entrate direttamente all'interno delle piantagioni, hanno estirpato la canna da zucchero, questa monocoltura che appunto avvelena la terra, e hanno iniziato a piantare altre coltivazioni. E questa è una forma di lotta necessaria per sanare la madre terra ed è una lotta diretta. I movimenti indigeni hanno vinto attraverso la lotta diretta, non attraverso le negoziazioni, perché appunto i ricchi non concederanno gesti bonari né nei confronti della terra né nei confronti delle persone. E se alcune conquiste, sì, è vero, si sono ottenute anche partecipando a dei tavoli, dei negoziati, non si vincerà solo così, ma attraverso la lotta diretta. Gracias compañeros, hemos ha sido la traducción. Si quieres seguir hablando, contándonos un poco más de cómo fue esta lucha en el concreto, ¿no? ¿Qué hicieron como población? ¿Cómo fue como la toma directa della terra? Abbiamo chiesto ai compagni di continuare a raccontarci, focalizzandosi un po' su come è stata, quali sono state le pratiche di lotta delle famiglie della liberazione, come è iniziata, come ha avuto luogo questa lotta nel pratico. Pueden seguir contándonos. Bueno, compañeros, nuevamente mi saludo para ustedes. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Somos de acá del norte del Cauca, del proceso de liberación de la madre tierra. Bueno, quería decirles, no a la pregunta concreta, pero sí mencionar de que el proceso de liberación de la madre tierra como un proceso político de rebeldía, a más de lo que se ha mencionado, volver a retomar las tierras que en un momento fueron de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de esas generaciones que nos antecedieron, y que luego en los procesos de colonización y de conformación de la república, pues pasaron a mano de unos pocos, ¿no?, llamados acá terratenientes. Aparte de ese proceso, que es una de las partes del proceso de liberación de la madre tierra, también en nuestro andar diario, en nuestro pensar, en nuestro ser, también es parte del proceso de la liberación de la madre tierra todo aquello que fortalezca nuestra identidad, nuestra cultura dentro de ese espacio. Sí, entonces la liberación de la madre tierra, como lo anteceden mis compañeros, es liberarla de ese secuestro que ha estado del monocultivo, de la agroindustria, de la caña. También es devolverle la dignidad a la madre tierra con todos nuestros actos que vayan vayan de la mano, ¿sí?, de la tierra, de nuestra madre tierra. Hablo de la identidad porque en ella nosotros estamos en ese proceso de volvernos a reencauzar en todo lo que tiene que ser el fortalecimiento de la identidad cultural, ¿sí? El idioma, como liberadores tenemos que fortalecer esa parte del idioma, todo lo que tiene que ver en el relacionamiento con la madre tierra, en lo espiritual, ¿sí? Y en todos los caminos que nos llevan a abrazar cada vez más a nuestra madre tierra. No es que vuelva la tierra a manos de nosotros como indígenas, para seguirla en el monocultivo, para seguirla explotando, para seguirla viendo como un sujeto y como una propiedad, sino para ser parte de ella y como le decía anteriormente, volverle dignidad a nuestra madre tierra, que está bastante, bastante deteriorada por el uso que se le ha dado. Eso quería de pronto anexar y pues darle la palabra al compañero León para hablar un poquito de de lo que tiene que ver con el proceso, ya cómo se dio. Solo esperamos un rato que hacemos la traducción de esta última parte, ¿vale? Muchas gracias, compañera. Ancora ci salutano ancora dal nord del Cauca. E appunto ribadisce la compagna che il processo di liberazione è un processo politico di ribellia e che appunto parte dalla consapevolezza del fatto che quelle terre siano le terre dei loro ancestri e che il processo di espropriazione delle terre è iniziata con la colonizzazione e appunto quello che ci dice la compagna è che il loro agire, pensare ed essere parte proprio da un rafforzamento dell'identità culturale e che sì, c'è la liberazione dalla canna da zucchero come monocoltura, ma c'è anche la parte di riappropriazione della cultura, della loro cultura indigena per dare dignità alla terra, della lingua e della spiritualità e appunto non, la ripresa in contatto con la madre terra è una ripresa in contatto con una spiritualità, con quello che diceva la compagna, che non deve tornare nelle mani indigene la terra perché rivenga vista come oggetto, come proprietà, ma che se torna nelle mani indigene è perché le venga restituita dignità. Questo. Gracias, compañeros. Pueden seguir Don León o quien quiere con la pregunta. Continuamos la entrevista. Bueno, bien. A ver, el proceso de liberación es la continuación de lo que había hablado de la recuperación de tierra, que tiene varios momentos. Yo voy a referirme tal vez a dos momentos. Uno es, en 1991 se estaba haciendo la recuperación de la tierra y ahí los ricos, el Estado con su fuerza de seguridad, entre comillas, asesinan a 20 compañeros en diciembre de 1991 y ahí para un poco la recuperación de tierra porque pues fue una manera de atemorizar y de frenar. Pero ahí fue responsable directamente el Estado, porque hubieron en ese entonces agentes secretos del Estado involucrados en la masacre con los paramilitares, y que los paramilitares se planearon, o sea, todo el planeamiento de esta masacre fue en una de las fincas que hoy se ha recuperado, se ha liberado. Muy seguramente de esto lo va a hablar el compañero más adelante. Y nosotros en el gobierno de Uribe, en el 2005, nuevamente se vuelve por la necesidad de la tierra, porque realmente había mucho joven que no tenía dónde trabajar. Nuevamente volvemos a iniciar. Ahí estuvimos unos días. Pero después en el 2008 se entra con más fuerza y ahí los quienes están al frente, los dirigentes, caen en la negociación política, porque el gobierno prometió de que les iba a comprar 3.000 hectáreas de tierra cada año, iba a asignar un recurso, pero eso era imposible. Entonces ya plantearíamos de que vendría como el segundo momento, el último momento que estamos, que es la recuperación de la tierra, y esa liberación de la tierra que pues ya prácticamente inicia en el 2014. Sì, allora ci sono due momenti che il compagno individua nel processo di liberazione, quindi dal 1991 lo Stato e le oligarchie uccidono 20 compagni nel dicembre. C'è un massacro appunto coordinato tra agenti dello Stato e paramilitari e, in una delle fincas, quindi delle terre che ora sono liberate. E chiaramente questo segna una rottura, insomma un momento di pausa all'interno della lotta del processo di recupero delle terre. E nel 2008 invece alcuni dei dirigenti del CRIC negoziano con il governo, perché il governo promette di comprare e quindi restituire alle comunità 3.000 ettari ogni anno. E poi arriviamo all'ultimo momento, che è quello attuale, che parte dal 2014. E prima di seguire ricordiamo, per chi si fosse avvicinato o avvicinata in questo momento, per chi ci stesse ascoltando da casa, Radio Blackout in diretta dal Festival dell'Alta Felicità, e non solo, perché ci siamo scordate di dirlo in precedenza, ma siamo anche in simultanea in Ponte Radio, un takeover radiofonico che facciamo con a cui partecipiamo come Radio Blackout insieme a molte altre radio indipendenti, autonome che ci sono in Italia: Wombat, Neanderthal, Radio Onda Rossa, Radio Spore, Radio Eustachio. Quindi in questo momento siamo in diretta su tutte queste radio e potrete riascoltare anche la questa diretta in formato di podcast dai siti delle varie radio. Come sempre, come Radio Libera, ci teniamo tantissimo a connetterci con quelle che sono le realtà di lotta in giro per il mondo, e in questo momento in effetti stiamo realizzando una connessione importante, perché siamo in collegamento con compagni e compagne dalla Colombia, trasmettendo dalla valle in simultanea su tante radio. Quindi insomma è un momento molto bello, e grazie a tutte e tutti quelli che ci ascoltano e che supportano le radio libere, autonome e indipendenti. Possiamo continuare con la diretta dalla Valle del Cauca. Entonces, en el 2014 se inicia aquí en Corinto, o sea, en el 2013 se comienza a hacer como toda una planeación, retomando un poco lo que dijo la compañera Ana, desde la parte espiritual, desde mirando el espacio también político, las estrategias, y realmente era algo que había que hacerlo porque no había otro camino, no había otra opción. Entonces, nosotros iniciamos acá, y después de haber hecho todo un planeamiento con algunas familias, las autoridades lo llevan a una asamblea, y la asamblea, ¿qué es la asamblea? La asamblea es del gobierno indígena aquí a nivel del territorio de Corinto. Y esa asamblea, pues, igual manera retoma como la iniciativa y ya prácticamente mandata. Mandatar son leyes que se sacan al interior de los gobiernos para los territorios indígenas. Y entonces se vuelve una ley de que por la necesidad de la tierra hay que comenzar a liberar. Lo que antecedían los compañeros, ¿por qué liberar? Porque liberar no solamente la tierra, como diría así, tal vez mal dicho, como el objeto, sino liberarnos también nosotros de nuestros pensamientos. O sea, liberar la tierra, si está esclavizada, es como cuando la tierra está en nuestras manos, nosotros comenzamos a darle otro manejo, liberarlo de todos los agroquímicos. ¿Cómo es pensar en una agricultura realmente que nos alimente, que nos nutra? Y eso es como hacerle la apuesta a los abonos orgánicos. Nosotros hemos, en diciembre del año anterior, celebramos los 10 años, hicimos varias revisiones, nos acompañaron muchos procesos a nivel del mundo y hemos hecho una revisión realmente ahora después de la Tierra que sigue. Yo iría como hasta allí, más adelante le abriría el espacio también al compañero Mauro después de la traducción. Gracias. Sì, nel 2014 hanno iniziato a Corinto, in realtà era dal 2013 che stavano preparando, stavano pianificando, soprattutto partendo dalla prospettiva spirituale, trovando uno spazio politico, strategico, c'era la necessità di farlo perché non c'erano altre opzioni e quindi le famiglie insieme hanno deciso e sono state chiamate dall'assemblea del governo indigeno di Corinto che appunto ha decretato in quel momento, secondo la legge indigena, di liberare le terre. Quindi riprendendo quello che diceva la compagnera Anna prima, liberare la terra e liberare anche noi e darle un altro modo di gestione, un'agricoltura senza agrochimici, con l'utilizzo di fertilizzanti organici, e a partire da questo dicembre sono state accompagnate da tante organizzazioni e collettivi del mondo proprio per rinforzare la parte di gestione organica e appunto senza l'utilizzo di agrochimici. Nel dicembre scorso c'è stata la festa della liberazione dei 10 anni nel punto di Corinto, appunto, dove si è avuto modo di riunirsi e confrontarsi anche con realtà di altri territori, anche con internazionalisti, e confrontarsi anche su, appunto, quale può essere la nuova frontiera di questa lotta rispetto alla cura della terra, liberarsi dagli agrochimici e iniziare una coltivazione più sostenibili per la terra. Adelante, Mauro. Bueno, nuevamente, pues gracias, aquí disfrutando de una agüita aromática y de los gallos que están cantando por acá cerca. Entonces, sí, muy agradecido de esta red de emisoras y de amistades que han venido por acá. Les conocemos, han caminado por tiempos, han venido a compartir un rato con esta lucha. Es parte de lo que en concreto nos gusta hacer y lo que hemos decidido desde el 2015, de crear como una red de amistades, que son luchas. No apostamos a las grandes plataformas como Liberación de la Madre Tierra, sino a las luchas de base, que son por lo general luchas pequeñas, que en las ciudades, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, están haciendo otros procesos, otros colectivos, también se nombran como colectivas, y como redes de huertas urbanas, y también en los campos, también están dando grandes luchas frente a megaproyectos. Conocemos en Europa varios procesos de ocupas que han venido a contarnos de sus historias. También nos inspiran. No nos consideramos una lucha única o de avanzada o de vanguardia, también nos asumimos como una lucha que camina junto con otras luchas desde la humildad, desde la sencillez. No estamos para enseñar a nadie, sino para entre todos y todas aprender de lo que cada quien va haciendo en sus rincones del mundo. Entonces, bueno, dejo hasta allí para en un momentico continuo otro pedacito. Sì, il compagno dice di essere molto grato per questa giornata, per essere lì dove si trova con i canti che gallano, con i galli che cantano, e anche per questo momento, per queste connessioni, per essere appunto, per partecipare a questo incontro tra radio, per appunto per le compagne che sono andate a trovarli. E appunto dal 2015 loro hanno deciso proprio di incontrare le altre lotte, le altre resistenze, e di stare all'interno di queste appunto lotte dal basso, di non partecipare a grandi piattaforme ma a reti di lotte di base. In Colombia stanno nascendo tanti collettivi e collettive, e reti di orti urbani, lotte contro le grandi opere. Sanno, perché ci sono persone appunto dall'Europa, dalle occupazioni, dai centri sociali, dagli spazi, dai collettivi che sono andate lì a trovarle e si sono anche ispirate alle lotte, ai racconti. Appunto sono lotte che camminano di pari passo, si cammina insieme, non si considerano una avanguardia, ma appunto momenti come questi sono momenti in cui si stringono relazioni e si impara insieme. Bueno, gracias, y también decirles que sobre la pregunta última que estamos rondando de la forma concreta como se ha estado haciendo esta liberación de la Madre Tierra, es como ya lo ha contado en parte el compañero León, cómo las comunidades se organizaron para lanzarse sobre la parte plana, porque el territorio donde estamos es donde empieza el valle hacia un lado. Es un valle gigantesco de 600.000 hectáreas de tierra, el valle del río Cauca, pero hacia el otro lado está la montaña, la cordillera de los Andes, y entonces el avance de la liberación de la Madre Tierra es hacia el valle, porque son territorios ancestrales, pero también son los territorios donde han sido ecosistemas, se le llama bosque seco tropical, que fue extinguido por el monocultivo de caña. Entonces, entrar en estos territorios es entrar con machetes, y muchas familias entran también con los animales, con las gallinas, con los cerdos, con las vacas, porque también son parte de la familia y son parte de la lucha que está liberando. Y una vez dentro de las fincas, de las grandes plantaciones de caña, pues empezar a tumbar con machete esa caña y empezar a sembrar comida, pero no tan fácil como lo estoy diciendo, sino que la represión ha sido muy grande. O sea, hay más de 600 heridos, hay 16 compañeros asesinados y también muchos daños que se ha hecho a las familias en los cultivos que han hecho las familias en estas tierras han sido arrasados. O sea, los cultivos de comida que ha hecho la comunidad dentro de las plantaciones, acabando la caña, han sido arrasados por la represión del Estado colombiano. Sí, voy a traducir. Quindi le comunità si sono organizzate per scendere, diciamo, dalle montagne e andare verso la pianura. Infatti nel Cauca, il Cauca è una zona enorme di 60.000 ettari di terra, però alle spalle ha la cordigliera andina. E chiaramente la liberazione scende dalle montagne e si dirige verso la parte di pianura che prima della monocoltura di canna da zucchero era un ecosistema di bosco secco tropicale che è stato completamente estinto dalla canna da zucchero. Le famiglie sono entrate con il macete, con gli animali, perché appunto anche gli animali fanno parte delle famiglie. E con il macete hanno iniziato a buttare giù la canna da zucchero. per iniziare a seminare nuove culture di sussistenza per loro. E non è così facile come sembra, anche se a me non sembra comunque facile, perché tutto questo processo ha avuto una repressione durissima da parte dello Stato. Ci sono stati più di 600 persone ferite, 16 compagni e compagne uccise, e in questi anni sono state fatte anche molti danni alle stesse culture, che sono state proprio estirpate, i frutti appunto della semina e delle colture dei compagni da parte della repressione. Muy bien, podemos seguir hablando. Bueno, cuando las comunidades deciden retomar nuevamente las tierras, sí, estas tierras descritas por el compañero, pues es una decisión de vida, ¿no? Es una decisión de vida porque allí se juega la vida. Se debe ir cambiando esas estructuras mentales a las que nos ha sometido el sistema en ese proceso de aculturación. Y también porque en el gobierno en que nosotros nos hemos movido en estos más de 200 años de época republicana y de procesos de gobernabilidad de nuestro Estado colombiano, pues siempre, sí, siempre han estado en contra de los procesos del pueblo, ¿sí? De los sectores menos favorecidos, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de las comunidades afrodescendientes. Siempre ha sido como las migajas, ¿no? Del gobierno que se le da a los pueblos, ¿sí? Los pueblos hemos hecho parte de un sistema donde el pueblo siempre ha sido oprimido y sus derechos siempre son pisoteados, ¿no? Hay una constitución política muy bonita en Colombia, pero ya la parte práctica pues es de revisar bastante. Entonces, dentro de todo ese proceso de liberación, donde es una decisión de vida y se vivió unas situaciones muy duras de represión en el territorio, siempre allí estuvieron presentes los sectores populares, ¿no? Otros medios de comunicación, otras formas alternas o de procesos alternativos que nos han ayudado a tejer, que nos han ayudado como a visibilizar, ¿sí? Fueron quienes nos visibilizaron muchas cosas, muchas atrocidades que se daban en el proceso de liberación, como fueron los desalojos, como fueron toda la intervención militar y de la fuerza pública dentro del territorio, pues para sacar a los a las comunidades de esos territorios donde los estaban retomando, ¿sí? Fue un tiempo muy duro. Ahorita tenemos calma, ¿no? Tenemos calma y hablamos un poquito de que tenemos un gobierno amigo, ¿sí? Un gobierno amigo, podríamos decir entre comillas. Pero, de todas maneras, la represión mermó bastante. Y pues la comunidad está tratando de fortalecer su plan de vida dentro de estos espacios. Pero sí quiero resaltar bastante ese tejer, ¿no? con otros medios alternativos, con otros sectores que estuvieron allí siempre con nosotros, dándonos una voz de aliento, visibilizando y dándonos la mano. Quería como mencionar un poquito esa parte. E quindi la compagna dice che quando le comunità decidono di recuperare le terre è una decisione di vita vitale, e cambia la struttura mentale, diciamo dopo l'imposizione di un processo di culturalizzazione da parte del governo in questi 200 anni dell'epoca repubblicana, sempre il governo ha dato solo le briciole al popolo, alle comunità indigene, contadine, alle comunità afrodiscendenti, e i popoli sono stati oppressi, i diritti calpestati, nonostante appunto attualmente ci sia una Costituzione che si può considerare bella sulla carta, non viene rispettata. E quindi appunto quella della liberazione della terra è una decisione vitale, la repressione è stata molto dura, nonostante ciò sono sempre stati presenti i settori popolari, accompagnati e supportati da mezzi di comunicazione indipendenti da altri collettivi e collettive che hanno dato visibilità, hanno aiutato a tessere, hanno aiutato appunto a rendere noti gli sgomberi con la forza, le violenze che sono state attuate, la repressione per respingerli fuori dai territori liberati. Ci sono stati tempi duri, ora è un tempo di apparente calma. Il governo attuale è un governo che viene definito tra virgolette amico, però appunto nonostante ciò c'è comunque repressione, e in questo momento è un momento in cui la comunità si sta cercando di rafforzare. Quello che voleva sottolineare la compagna è proprio appunto questo tessere comune con altri mezzi di comunicazione, con altre collettività. Bueno, ahora preguntaría a los compañeros y la compañera de hablar un poco sobre la fase actual y también la apuesta por el futuro. Ci colleghiamo un po' con quello che ha appena detto la compagna per chiedergli un po' meglio rispetto alla fase attuale del processo e qual è... ¿Cómo se imagina el futuro? Adelante, Mauro, yo complemento. Sí, pues en estos momentos es importante decir que la intervención de los ricos, cuando sienten que las comunidades van ganando, que van avanzando en la lucha, los ricos se organizan, en este caso se han organizado bastante y han tratado de frenar esta lucha directa por la tierra con el ofrecimiento de proyectos de inversión en los territorios. Entonces eso ha apaciguado la lucha, al igual que lo ha hecho el gobierno progresista, que es un ciclo que en Colombia no se había dado, los gobiernos progresistas, pero ahora ya se dio. Y aunque hay avances para algunos sectores, en general las luchas están adormecidas. Y eso ha pasado también en parte con la liberación de la madre tierra, o sea, los ricos por un lado organizándose, y por otro lado el ciclo progresista ha hecho que merme la energía, que merme la fuerza que iba avanzando como liberación de la madre tierra. Entonces ahora es un grupo de familias, son grupos de familias que mantienen esa lucha, hacen vigente la lucha directa por la tierra, y la forma de organización en cada lugar donde se está dando esta lucha hace que muchas familias se mantengan en ese sueño de seguir liberando la madre tierra por fuera del capitalismo. Entonces, con acciones como tener sus propios cultivos, tener una economía familiar, tener una economía comunitaria. En ese caso, estamos dando un paso hacia la agricultura orgánica, una agricultura que no depende de los insumos de la revolución verde, sino que se preparan los abonos en la tierra, en el mismo territorio, las mismas familias, y se preparan toda la parte que implica un control biológico, un control natural, para para mantener los cultivos y tener buena cosecha. Entonces, es un paso que estamos dando, todavía no ha sido completado. Acá en la Emperatriz, por ejemplo, tenemos ya un lote comunitario de maíz orgánico y ya les contaremos más adelante, pues ya que tenemos esta red, de cómo nos fue en la cosecha, cómo son los frutos de este primer lote comunitario de maíz orgánico. Y muchas familias también ya están dando ese paso hacia tener otra forma de agricultura. Por ahora dejo allí. Gracias, compañero. In questo momento appunto i ricchi si stanno organizzando, perché quando vedono che le comunità iniziano a vincere si organizzano per rispondere, quindi stanno offrendo progetti di investimento all'interno dei territori liberati. E questo ha fatto sì che la lotta in qualche modo si pacificasse, così come la presenza di un governo progressista, che è la prima volta nella storia della Colombia repubblicana, e, appunto, che promette un avanzamento per alcuni settori della popolazione. Questo ha fatto sì che in qualche modo le lotte si addormentassero, quindi questa congiuntura tra riorganizzazione delle oligarchie e ciclo progressista ha fatto sì che appunto ci fosse uno sfiancamento e una pacificazione della lotta. Nonostante ciò, ci sono dei gruppi di famiglie all'interno del processo di liberazione che continuano a mantenere la lotta diretta e stanno facendo dei passi avanti nell'organizzarsi con forme di organizzazione comunitaria e di economia comunitaria al di fuori del capitalismo. In questo momento si stanno dedicando molto all'agricoltura organica, biologica, all'agroecologia, e quindi stanno preparando fertilizzanti in loco, non fanno ricorso all'agrochimico, hanno un controllo biologico e naturale sulle loro coltivazioni, e in questo momento hanno fatto un lotto comunitario di mais organico, che da noi si potrebbe tradurre come biologico, e ci diranno come sta andando, quali saranno i frutti che raccoglieranno da questo lotto comunitario. Bueno, compañeros y compañeras, si quiere añadir algunas cosas, dale, hágalo. Si no, tomamos alguna pregunta del público, porque hay un público aquí que nos está escuchando, así que podemos preguntar a ellos cuáles son como sus dudas o como reflexiones sobre lo que hablamos en este momento para compartir con ustedes. Bueno, yo no quiero dejar pasar por alto, aprovechando este espacio, que hay varias emisoras y de igual manera varios procesos sociales a nivel del mundo. Y pues queremos como compartir la experiencia que nosotros vivimos, especialmente aquí en el norte del Cauca, porque no fue diferente Corinto, Caloto, sino que las remetidas fueron las mismas. O sea, para hoy haberle arrebatado o haber recuperado, haber liberado estas 12.000, más de 12.000 hectáreas, en la parte plana se tuvo que pasar muchas dificultades. Por ejemplo, aquí en Corinto hubieron momentos que al comienzo hubo mucha gente, ¿no? O sea, en el 2014, en diciembre del 2014 hubo mucha gente, pero en marzo comenzaron las arremetidas, la gente comenzó a irse porque comenzaron a destruir los cultivos, todo tipo de cultivo. Pero de igual manera, aquí nos combatieron como si fuéramos un actor armado. Aquí por lo menos hubieron tanques de guerra, que le llamamos acá. Acá hubieron, trajeron incluso de la capital, trajeron policías con caballos, con perros, Estuvieron los helicópteros que a toda hora, pues no eran uno, sino eran varios helicópteros sobrevolando aquí la población. Estuvieron los aviones de combate que combatían a los actores armados. Aquí llegó un momento que hubo creo que alrededor más o menos de unos 5.000, 6.000 solo escuadrones antidisturbios. Entonces, a todo eso nos tocó que nosotros enfrentarnos, y realmente que el arma de nosotros, uno fue la tranquilidad, y lo otro es la seguridad de que estas tierras tarde que temprano tenían que estar en manos de nosotros. Yo les digo a todos los que nos escuchan, nosotros mismos queremos de verdad agradecerles a todas las universidades de diferentes países que estuvieron acá conociendo, pero también dándonos una voz de aliento y transmitiendo lo que ocurría. A los diferentes procesos sociales, se me olvidan muchos, realmente recuerdo de algunos, de los kurdos, de los zapatistas, de los vascos, bueno, entre otros, ¿sí? Muchos otros sectores de luchas, de diferentes luchas, por lo menos del medio ambiente, la lucha por el agua, las luchas por los bosques, las luchas por no dejar construir proyectos de los grandes capitalistas, por ejemplo, lo del tren, los de puestos o cuarteles de policía militares en diferentes países, que realmente han venido a compartir. Entonces yo sí les digo a todos, yo creo que estos procesos, yo realmente lo veo con muy buenos ojos, lo veo con muchas expectativas, y es que nos tenemos que unificar. Tal vez estos medios es una manera de nosotros unificarnos, pero deben haber unos encuentros que al comienzo lo hicimos, que lo llamamos encuentros de procesos, de encuentros internacionales de procesos de liberación de la madre tierra. Creo que aquí en Corinto, en el norte del Cauca, logramos hacer tres. Y el último que lo retomamos ahorita en la conmemoración de los 10 años aquí en Corinto, que participaron tal vez muchos de ustedes. Entonces, yo creo que esto nos toca a nosotros seguirlo organizando entre todos ustedes, porque realmente estas luchas sociales, creo que esto es a nivel del mundo, esto no tiene patrocinio de nada, esto es metiéndonos la mano al bolsillo, esto es con los amigos como ustedes que aportan, y así por lo menos la gente convencida de las diferentes luchas sociales. Yo quiero como dejarle esto en manos, en conocimiento de ustedes, porque aquí no nos podemos olvidar de la gente que ha sido judicializada también, que hoy muchos en el norte del Cauca están unos en la cárcel, otros no pueden salir ni siquiera al patio. Pero de igual manera, pues los resultados se han visto, ¿no? Yo quiero como dejar esto sobre la mesa, y de verdad para nosotros ha sido de mucha gratitud que hoy estemos hablando a muchas personas que nos están escuchando y decirles de que no podemos echar un paso hacia atrás. A pesar de todas las dificultades, siempre, siempre tenemos que encontrar una luz de esperanza. Muchas gracias, compañero. Ti voy a traducir. Ringrazio ancora per questo momento, per il fatto che ci siano varie radio e tante persone che ci stanno ascoltando. Appunto il fatto di aver recuperato più di 12.000 ettari in questi anni ha comportato moltissime difficoltà, molta repressione. Nel 2014, nel dicembre, erano in tante e tanti, e nel gennaio già stavano rovinando e distruggendo le loro colture. Sono stati mandati nei loro territori attori armati dalla capitale, con polizia, con cavalli, cani, elicotteri, tank smilitari e aerei da combattimento che sorvolavano le comunità. 5 o 6 mila persone appartenenti dalle squadre antisommossa, però loro sono tranquille, sono sicure, perché sanno che quella terra deve essere loro e deve essere nelle loro mani. ricordano e ringraziano i tanti collettivi, le tante organizzazioni, i tanti processi che in questi anni le hanno accompagnate. Tra alcuni ci sono i curdi, le comunità zapatiste, le collettività basche e settori che provengono da diverse lotte per la difesa dei boschi, delle acque, dell'ambiente, contro le grandi opere come i treni o le caserme militari. Tutti i processi che loro vedono con molte aspettative. E nel Cauca, nel nord del Cauca, sono stati già organizzati 3 incontri internazionali. L'ultimo è stato fatto a dicembre proprio in occasione dei 10 anni di anniversario dal 2014. Hanno voglia di continuare a organizzarli, a organizzarci per incontrarci tra amicizie, tra alleanze. E ricordano anche tutte le persone che stanno subendo in questo momento la repressione giudiziaria, le persone incarcerate, e appunto anche per loro nessun passo indietro in nessuna parte del mondo. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias, muchísimas gracias. Y ahora seguimos con algunas preguntas desde el público. Quindi abbiamo ringraziato i compagni e le compagne che sono stati collegati con noi e che ci hanno raccontato della loro esperienza della liberazione delle terre nel nord del Cauca, e diamo la parola a chi ci sta ascoltando qua dal vivo al Festival Alta Felicità. Quindi qualunque domanda, anche appunto in italiano, così la possiamo tradurre a chi è in diretta con noi. Ciao, lo chiederò in italiano, scusate. Io non ho capito una cosa, se il fatto che ci sia un governo progressista ora, come non c'è mai stato, e la lotta sia, diciamo, appacificata, questo sia vissuto come una cosa positiva oppure negativa, e che, diciamo, rapporto c'è con questo nuovo governo? Ecco, questa è la domanda. Grazie. Ok, qualcuno... raccogliamo... Ok, la hacemos una por una, así que traducemos. Sí, un compañero de aquí está preguntando un poquito más sobre cómo se percibe el gobierno de progresista de Gustavo Petro ahora por el proceso, en el sentido que no quería saber más si es algo que por el movimiento de la liberación es positivo o tiene un algo de negativo, como está afectando el proceso mismo. Adelante, Mauro. Mauro. Bueno, tocaría verlo en dos partes. ¿Sí, sí me están escuchando? Sí, le escuchamos. Vale, vale. Bueno, entonces sí, habría que verlo en dos partes. Por un lado, para la población colombiana en general. En ese caso, es un paso positivo. Digamos, es un avance. Porque, por ejemplo, se ha logrado dar apoyo, el Estado por fin mete la mano al presupuesto para apoyar a sectores vulnerables, digámoslo así, para apoyar casos de la violencia que ha tenido el Estado y para la restitución de tierras y para apoyo en educación, para apoyo en salud. Ha tratado de hacer reformas en favor del pueblo, algunas las ha conseguido, otras están pendientes. Entonces, digamos que en general para la población colombiana es algo positivo y es algo distinto a los otros gobiernos que han estado durante 200 años en Colombia. Si lo vemos desde las luchas alternativas, desde los movimientos, no ha sido tan positivo porque en Colombia las luchas están adormecidas. O sea, llegar al progresismo se considera que tener un gobierno en el Estado, pues ya es como la cima de la montaña, llegamos a lo más alto, y por lo tanto ahora ya no, ya la lucha no es tan necesaria, no es tan digamos que si ya tenemos este gobierno, nosotros mermamos la lucha y ahora va a ser apoyar al Estado y casarnos con el Estado. Pero sabemos que esto es apenas un ciclo, o sea, el progresismo en América Latina ha sido un ciclo. Lo mismo que está pasando en Colombia ya pasó en toda América Latina, o sea, las luchas se mermaron, las luchas se apagaron y el Estado se ha fortalecido, pero al mismo tiempo el capitalismo no mermó. El capitalismo en toda América Latina progresista y en Colombia progresista también se ha fortalecido, no se le ha tocado ni un pelito al capitalismo. Y la lucha nuestra es frente al capitalismo. No decimos, nuestra lucha no es para hacer un nido dentro del capitalismo, sino para organizarnos y hacer una vida por fuera del capitalismo, superarlo, irlo dejando atrás. Entonces, en ese sentido, como liberación de la madre tierra, esa es la mirada, esa es la lectura. No podemos decir que nos vamos contra quienes están a favor de la lucha progresista. Como dicen en otras gentes, es necesario que aprovechen ese cuarto de hora o esa coyuntura, pero saber que seguimos de largo, o sea, con Estado o sin Estado, la lucha tenemos que seguirla haciendo, y si aprovechamos alguna ventaja que da este momento, pues hay que seguir dándole la pelea al capitalismo. Y este gobierno ha dicho que no va a pelearle al capitalismo, sino que va a desarrollar el capitalismo en Colombia, lo dijo en la posesión. Entonces nosotros decimos, no apoyamos esa, no es nuestro camino, nosotros estamos para seguir dándole la pelea al capitalismo, y eso se va haciendo en el paso a paso. Ahora en este momento es más difícil porque somos más pocos, pero tenemos que, creo, acá en Colombia, acá en la liberación de la madre tierra y en todas las luchas a nivel mundial, estar como en ese espacio de decir que del Estado lo mínimo, por ejemplo, el pasaporte, la cédula y otros, pero la lucha sí tiene que ser por fuera para dejar atrás, digamos, estas formas de organizarse que son del mismo capitalismo, ¿no? Hoy en día el Estado es una oficina, todo Estado es una oficina del capitalismo. Así que, en parte, pues puedo mencionar eso. Grazie compagno. Rispetto alla domanda che ci veniva fatta qui in diretta dallo studio mobile della radio, ci rispondono che appunto la questione va vista da due prospettive, ovvero la prima è quella della popolazione colombiana nel suo congiunto in generale, ed è una prospettiva positiva, nel senso che ci sono stati degli avanzamenti, ci sono stati dei settori investiti nei settori vulnerabili, delle riforme sull'educazione, sulla salute, alcune altre che verranno fatte. Quindi insomma meglio, va meglio che i governi degli ultimi 200 anni. Però dal punto di vista della prospettiva dei movimenti invece si vede un addormentamento delle lotte, perché sembra che appunto il fatto di essere all'interno del governo sia già aver raggiunto il traguardo, ma quello progressista in America Latina è soltanto un ciclo, è successo e si è visto in tantissimi altri paesi, e ora si sa. E il capitalismo non è stato indebolito da questi governi, e la loro lotta, la lotta delle popolazioni del Cauca, è una lotta anticapitalista per superarlo e non per trovarci una nicchia dentro, e quindi appunto non sono nemici, non sono in contrapposizione rispetto alle persone che vedono nel governo progressista un qualcosa di positivo, che appunto si goda e si prenda vantaggio di questi 15 minuti e si approfitti di questi 15 minuti di tranquillità, però non sarà questo governo a lottare contro il capitalismo, insomma l'hanno dichiarato anche apertamente che vogliono sviluppare una linea insomma di sviluppo all'interno del capitalismo per la Colombia, e appunto adesso è più difficile pensarlo perché si è in meno, ci sono meno persone, ma appunto all'interno dello Stato non si vede questa prospettiva, dallo Stato appunto si richiede il minimo, però la lotta è al di fuori di esso. Sì, loro dicono anche, cioè mi sembrava che nel finale lui dicesse anche che la loro lotta vuole essere una lotta anticapitalista in senso ampio, no? Quindi non restare una sorta di nido in cui si sviluppa un determinato pensiero e una determinata lotta, ma invece riuscire a costituire, diciamo, una forma di lotta anticapitalista che possa essere anche, cioè, riproposta e diffusa, e questo è il loro, fondamentalmente, il loro obiettivo politico. Non so se ci sono altre domande, interventi, questioni. Vediamo se ci sono altre domande dal pubblico, se no c'è anche un intervento di un compagno colombiano che è qua con noi, che voleva fare un intervento direttamente dallo studio mobile. Prendiamo ancora un'ultima domanda e poi lasciamo spazio anche al compagno. Ciao, un saluto alle compagne e ai compagni della lotta per la resistenza dei territori in Colombia. Scusate, io faccio anch'io la domanda in italiano, ma capisco lo spagnolo, ma parlo molto male. E, vi chiederei un approfondimento rispetto alla connessione con le altre lotte territoriali per l'autodeterminazione in Latino America, visto che avete citato anche questi momenti di incontro nazionale e internazionale che avete avuto negli ultimi anni. Grazie. El compañero quería saber un poquito más sobre cuáles son estas conexiones que desarrollaron con otros colectivos y otros movimientos en Latinoamérica, como hablaron también de los encuentros internacionales que organizaron en los últimos años, y sí, un poquito más sobre eso. Mauro, adelante, te abro el espacio por la Minga Comunicaciones y otros. Adelante, Mauro. Bueno, gracias por la pregunta, porque nos permite recordar que un fuerte que hemos tenido acá, un punto fuerte, han sido las relaciones con otros procesos, con otras luchas, como lo hemos dicho, luchas de base. Por lo general luchas pequeñas, pero no por eso que no tengan su gran valor. Nosotros también nos consideramos una lucha pequeña, y el tener esa convicción de que nos relacionamos con luchas de base ha sido una de las de lo que nos ha permitido que podamos hacer distintas convocatorias, tanto para la parte de comunicación como para la parte de tejer redes en otros sentidos. Ha sido muy fuerte acá el proceso de comunicación, nosotros llamamos Minga de Comunicación, como tejer una red que permita que la palabra nuestra desde acá del territorio salga hacia muchas partes, pero que también conozcamos lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y también eso nos ha permitido convocar encuentros internacionales. Han sido tres encuentros internacionales que hemos hecho. No los hemos vuelto a hacer porque estamos en otro momento, como en otra etapa de la liberación de la Madre Tierra. Más adelante, seguramente las vamos a retomar. Ya en diciembre, en el cumpleaños de Corinto, pues se retomó como una parte. Pero sí es como con la convicción de que nos juntamos las luchas, ¿cómo podemos decir? Altermundistas, las luchas que están frenteando, nosotros decimos las luchas que le frentean al capitalismo. Esas son las luchas con las que nos juntamos, con las que nos convocamos. Y somos parte, somos una partecita de esa gran constelación de luchas que hay alrededor del mundo. Así nos asumimos. Y también ahora estamos tratando de impulsar una experiencia nueva de formación y de red, que es a través de la agricultura orgánica. Entonces vamos a hacer un proceso de formación, o a continuarlo, porque ya lo hemos empezado, en agricultura orgánica, pero que tenga en cuenta más temas así del nivel de otras luchas, otros procesos, otras geografías, cómo están, qué está sucediendo, por ejemplo, con las guerras del capital, qué está pasando con Palestina, qué está pasando con el Kurdistán, qué significan todos los movimientos bélicos que está haciendo el capitalismo, cómo se está moviendo, y al mismo tiempo cómo nos seguimos tejiendo con esas resistencias, con esas luchas que frentean al capitalismo en esos rincones donde la gente ha venido acá, que ya conoce, que lleva nuestra palabra, como está sucediendo en este momento, que lleva nuestra palabra a otras personas, a otros corazones. Y entonces con ese ir haciendo ese tejido más grande, ahora desde otra etapa en la que estamos, que es importante subrayarlo, ya no somos los mismos de hace 2, 3 años, el proceso ha cambiado mucho, somos un grupo de familias que seguimos en la misma posición como de la necesidad de la liberación de la madre tierra, y desde allí pues, hablamos y les saludamos y esperamos que sigamos tejiéndonos. Grazie compa, grazie, ringrazio per la domanda, perché proprio ci permette di ricordare un punto di forza della liberazione, ovvero questa relazione con altre piccole lotte di base che hanno un grandissimo valore, anche loro si considerano una piccola lotta. E questa relazione ha permesso loro di chiamare, di convocare differenti momenti per tessere reti. Hanno una minga, quindi un collettivo in cui si occupano in comune della comunicazione per farsi conoscere all'esterno, ma anche per conoscere altre lotte. E appunto tutto ciò ha permesso di convocare questi 3 incontri internazionali. Adesso è un'altra tappa della lotta, appunto c'è stato il compleanno di Corinto nello scorso dicembre per i 10 anni, in che ha permesso loro di rincontrarsi con altre lotte territoriali, però in questo momento si stanno dedicando più che altro a dare impulso a reti attraverso l'agricoltura organica e comunque continuano a interrogarsi rispetto alle dinamiche mondiali, cosa sta succedendo nel mondo, cosa succede in Palestina, cosa succede in Kurdistan, qual è il ruolo della guerra all'interno delle dinamiche di sviluppo del capitalismo mondiale e come si continua a resistere all'interno di questa fase. E ringraziano ancora una volta per lo spazio e per il fatto che la loro voce in momenti come questi venga portata, per continuare ad allargare questo tessuto, e appunto sono in una fase nuova anche rispetto a 2 o 3 anni fa della loro lotta, ma vogliono continuare a tessere insieme. Compañeros, muchas gracias, muchísimas gracias por vuestra intervención, por vuestro mensaje para compartir lo que es la lucha de la liberación por la madre tierra. Nos mandamos un saludo desde la Val di Susa, el Valle di Susa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! Bueno, creo que lo puedes escuchar, ¿no? Sí, los escuchamos perfectamente. Sí, sí. Y muchas gracias por ese saludo, ese grito. Muy bien. Fue un gusto hablar con ustedes. Ojalá que podamos seguir hablando otras veces en directa radio, en Radio Blackout, y seguir contando lo que pasa por allá. Y nada, nos hablamos pronto y muchas, muchas gracias y buena lucha. Muchas gracias, compañeros y compañera. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Igual manera a ustedes por abrirnos ese espacio, y estoy seguro que a través de este medio nos vamos a seguir encontrando con muchos otros procesos Y por acá en estos territorios siempre las puertas estarán abiertas para todo el que quiera venir a saludarnos y compartir sus experiencias. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego, gracias, gracias. Gracias, un saludo. E ci salutano i compagni e le compagne dalla Valle del Cauca. È stato anche per loro un piacere rimanere connessi con noi. Avremo modo di continuare a raccontare quello che succede nel Cauca, al processo di liberazione della Madre Terra, dove abbiamo appena finito di stare connessi con i compagni e le compagne di là. E ci invitano a passare quando vorremmo, a braccia aperte. Ora mandiamo un po' di musica, sempre musica NASA, e poi faremo un piccolo dibattito tra noi per ripercorrere un po' quello che ci hanno detto i compagni e le compagne, per fare un po', diciamo, fare un commento a questa lotta e anche dare la parola a un compagno colombiano che si trova qui in valle con noi. Zateca, la señora chayo una pecucu. Vishamba la zateca, la señora chayo una pecucu. Chansai chihuehue, chukai chihuehue, cueshuhue, tsukame. Chansai chihuehue, chukai chihuehue, cueshuhue, tsukame. padre con su canción. Cuando hay amor del corazón, cuando hay amor del corazón, cuando hay amor del corazón. Vamos a ver en toda Colombia. Rieccoci in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout, dal vivo al Festival dell'Alta Felicità. Abbiamo appena concluso la diretta con i compagni e le compagne dal nord del Cauca in Colombia, del processo di liberazione della madre terra. Ci è arrivato un messaggio che purtroppo non siamo riusciti a leggere in tempo prima che terminassimo la diretta, e parla dei limiti. È una domanda sui limiti del discorso anti-agrochimico rispetto alle sfide di una popolazione mondiale sempre crescente e rispetto al fatto che in tutto il mondo le popolazioni vadano urbanizzandosi, lasciando le campagne sempre più in mano all'agroindustria. Allora, come dicevo poco fa, purtroppo non siamo riusciti a leggere questa domanda in diretta con i compagni e le compagne dalla Colombia. Quello che possiamo fare è abbozzare più che una risposta, un ragionamento sulla base di quella che è stata la nostra esperienza dal vivo in quei territori e sulla base di quello che ci hanno raccontato compagni e compagne. Ecco, allora, da parte mia, allora, penso che sia difficile intanto porsi questa questione in termini globali, nel senso che la questione dell'uso della terra ai fini della propria riproduzione è una cosa che va vista contestualmente, e in America Latina e in Colombia, visto che ci stavamo appunto interfacciando con quel territorio, la questione territoriale è ancora direttamente molto legata alla sussistenza delle comunità, delle famiglie, delle popolazioni, perché, come ci ricordavano compagni, la divisione delle terre, chiamarla inequa è un eufemismo, perché c'è un campesinato, c'è un modo di vivere contadino che è ancora estremamente diffuso, e perché non c'è mai stata una riforma territoriale tutti i vari gruppi politici latinoamericani dell'izquierda, tra virgolette, però gruppi guerriglieri, gruppi comunque che si sono battuti contro il colonialismo, contro lo Stato, contro il capitalismo, l'imperialismo americano, hanno sempre avuto nel proprio programma una riforma agraria, quindi di redistribuzione della terra. La seconda cosa è relativa al la seconda cosa che mi veniva in mente è relativa alla differenza tra uso e possesso o proprietà della terra, un punto che poi approfondirà un po' la compagna che sta trasmettendo qui. E la terza cosa che mi veniva da dire invece è relativa a un dialogo avuto con una interlocutrice del processo de liberación che era con noi ai microfoni poco fa, che diceva: ovviamente non è scontato che una terra conquistata anche dalle nostre famiglie sia una terra che fa parte del processo di liberazione, nel senso che le terre noi le abbiamo liberate dal capitalismo, dal monocultivo, dai signori, dai padroni, dai ricchi della canna da zucchero, ma chiaramente la tentazione o comunque la possibilità che queste terre a loro volta vengano vendute dalle stesse persone, famiglie indigene, ad altri ricchi, ad altri terratenenti, ad altri possedenti, o comunque vengano utilizzate per uno sfruttamento che non è consono rispetto a quelli che sono i principi della lotta, è comunque sempre una possibilità. E per questo noi lavoriamo tantissimo sulla creazione di una sfera di valori, se vogliamo chiamarla così. Loro la chiamano anche cosmogonia, la chiamano anche identità, che ovviamente si lega a doppio filo con le loro radici NASA, che vede nell'educazione e nell'organizzazione, come ad esempio l'organizzazione il CRIC o i vari cabildos, che sono i loro consigli territoriali, vedono un punto strutturale. Questa cosa deve essere continuamente alimentata, deve essere continuamente nutrita, e anche le nuove generazioni devono crescere all'interno, no, di questa mentalità, di questa sfera di valori. E questa è una sfida che è rivoluzionaria in sé, perché comunque si tratta, appunto, come dicevano anche prima i compagni, di costruire una mentalità rivoluzionaria. Sì, possiamo dire che quella della gestione comunitaria delle terre è un paradigma, una sfida comune a tante popolazioni e comunità indigene in Centro America, in America Latina. In Colombia si parla della Minga, in Messico si parla del Tequio, che sono appunto queste giornate di lavori collettivi nelle terre comuni. C'è proprio un'idea appunto della gestione comunitaria collettiva, proprio perché la parcellizzazione della terra, quindi la proprietà privata, la divisione di generazione in generazione, lascia le persone sempre a gestirsi pezzi sempre più piccoli di terra, con cui non riescono nemmeno a pensare ad una propria sussistenza, e questo fa sì che appunto quelle terre poi vengano vendute, vengano cedute di nuovo all'agroindustria. Quindi proprio il cambiare la mentalità rispetto alla proprietà della terra e al fatto che ci possa essere una gestione comune, comunitaria, che lavorare insieme questa terra, che farlo secondo principi di rispetto, di rigenerazione, di non sfruttamento, di non oggettificazione, si possa fare. Ci sono veramente tantissimi esempi in America Latina, e appunto è proprio, fa parte di una cosmovisione, e tantissime popolazioni si stanno proprio riappropriando della loro cultura, che ha in sé questi principi che sono stati con la colonizzazione dal 1500, con le nuove colonizzazioni hanno tentato di sradicarle, ecco. Ma la resistenza, appunto, come ben sappiamo, delle popolazioni indigene va avanti da più di 500 anni, e insomma, secondo me abbiamo tanto da imparare da loro, sia nel pratico che a livello appunto di cosmovisione e di pratiche di resistenza. E quindi direi che appunto rispetto al discorso agrochimico, crescita della popolazione, mi sembra evidente che il capitalismo in questa fase storica stia producendo guerra e morte, che non sia una vera, come dire, non sia un modello che sta permettendo una reale riproduzione e sussistenza dell'umanità, e che quindi sia necessario prendere spunti e idee da chi invece questi processi di rigenerazione e vita li sta praticando. E Un altro aspetto molto interessante che si lega appunto a questa tematica è venuto fuori anche agli incontri appunto fatti alla Liberazione per i 10 anni, quindi il dicembre scorso, in cui appunto il fatto che le nuove generazioni spesso stiano anche abbandonando i territori ancestrali, si stiano avvicinando alle città e stiano abbandonando in parte la vita campesina. Sicuramente è stato un tema di dibattito la Liberazione, perché appunto dopo 10 anni comunque di un processo che è andato avanti, che ha liberato più di 12.000 ettari di territorio, è stata una tematica tipo continuiamo a liberare ma per chi, se le nuove generazioni abbandonano i territori? Ed è una tematica che viene dibattuta in Colombia ma anche in molti altri territori del Sud America. E sicuramente un aspetto interessante nel Cauca è approcciare questo discorso rinforzando l'educazione, quindi portando avanti un'educazione propria indigena, quindi dando spazio oltre alle scuole, alle università della città, dando un'educazione che guardi a tutto quello che è la cultura indigena, quindi insegnando la lingua, insegnando la spiritualità, quindi portando avanti dei processi legati a quello che è tutta la conoscenza del territorio, la connessione col territorio, forme di educazione che siano proprie di quelle culture e che sicuramente danno gli strumenti per rimanere anche sul territorio e guardare al rapporto con la terra che sia realmente di rispetto e di connessione con quei territori. Qua di nuovo dallo studio mobile di Radio Blackout che sta trasmettendo quest'oggi direttamente dalla Valsusa al Festival dell'Alta Felicità. E per un po' concludere questa diretta radio di oggi abbiamo la possibilità di parlare, cioè di sentire un po' le parole di un compagno che è qua presente, che arriva da Bogotà e che fa parte del collettivo Pirotecnia Negra, un collettivo presente in Colombia che fa comunicazione alternativa, e lo facciamo presentare, ci facciamo raccontare un po' cosa fanno loro e niente, gli do subito la parola. Ciao a tutti la gente che sono qui presente, mismo alla gente che sta ascoltando questa radio liberata della radio Blackout. Io sono del collettivo Pirotecnia Negra, è un collettivo che è nato 10 anni fa con una intenzione di fare grafica, basicamente il graffiti, in las estradas de Bogotá y de Colombia. Noi siamo, fue nato como una forma de comunicación alternativa, de gráfica subversiva. Nuestra intención es emerger esta narrativa que el mainstream y los medios de comunicación masivo intentan apagar. Y esto lo hacemos con la gráfica, aunque hemos desarrollado también un fanzine para escribir también las percepciones que nos tenemos desde una perspectiva libertaria. En el último trabajo que hemos hecho es una cartografía sobre el esfrutamiento, el expolio que acontece en la Colombia, porque para quien no sabe, nos hicimos en un conflicto armado desde el año 50, donde hay unas guerrillas comunistas que intentan combatir el Estado para arribar al poder. Tiempo adelante ha venido toda la cuestión del narcotráfico, que ha hecho este conflicto un conflicto muy particular que no se presenta en otras partes del mundo. En cuanto a la cartografía que hemos hecho, habla sobre el esfrutamiento, sobre el expolio, donde imagina tú una región donde hay campani o hay comunidades afrodescendientes, mismo como ha comentado los compañi del norte del Cauca, también comunidades indígenas que tienen su tierra, y arriban estos grupos militares como la guerrilla, los paramilitares, y ellos desplazan a la población de la tierra para entregarle este territorio a la banca y a la especulación de la tierra, para dar este territorio a las multinacionales. El problema sobre el extractivismo es un tipo de colonización, neocolonización del territorio, donde loro prenden la tierra, desplazan a la población local y traen a las multinacionales para hacer extractivismo del carbón, del oro y de muchos otros minerales. También para entregar la tierra para el ganado, para las mucas, mismo para entregar el territorio para el monocultivo. Y también un tema que es muy importante es todo el cultivo de la coca. La folia de coca es un insumo ancestral de las comunidades indígenas. Cuando arriba todo el narcotráfico, loro han prendido la folia de coca para hacer la cocaína. Esto ha dejado un conflicto de aproximadamente 7 millones de personas afectadas por el conflicto armado. Solo 6 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios. Otra gente ha sido huida, otra gente multa, 200.000 personas que han sido desaparecidas en este conflicto. y el problema del cultivo de la coca y del monopolio sobre la hoja de coca, que ha sido una planta usada por las comunidades indígenas de forma ancestral. Esto ha traído mucha guerra, más que la guerra también en pro del capitalismo. Nos saluta de antifascista, es anticapitalista. Por cuenta de esto, que yo traigo este mensaje de que tutti grammi de cocaína que va fuera de Colombia está con sangre, ¿sí? Tú debes saber que el consumo de cocaína también trae muerte, y pienso que en este espacio es importante dejar este mensaje para que tú también parle para el resto de la gente a su alrededor, en sus espacios, que fai debate sobre cómo este divertimento trae sangre y muerte en Colombia. Como tú tienes el privilegio de la gente en Europa y en el norte global, por cuenta del esfrutamiento y el expolio del sur global. Gracias a tutti. Grazie mille, ringraziamo moltissimo il compagno di Pirotecnia Negra da Bogotà e grazie per queste parole. Penso che sia molto importante che se ne parli, che ne parliamo nei nostri spazi, nei nostri contesti, e la radio appunto è uno dei mezzi più potenti che abbiamo per diffondere le voci che arrivano da lontano ma che sentiamo molto vicine sempre. Grazie mille, e adesso mandiamo ancora un po' di musica e un saluto. Sì, per già chiusar, noi siamo qui con un banchetto, con algo di informazione, mismo che voi puoi andare alla pagina web www.pirotecnianegra.com, lì tu puoi scaricare tutte le fanzine e le informazioni che noi producimos. Un abbraccio a tutti. Grazie, ecco, questo è molto importante, che ci sia una pagina da dove poter vedere il lavoro che fanno le compagne e i compagni, ma ancora più importante il fatto che in questi giorni loro siano presenti qua al festival, quindi per chiunque volesse conoscerli, chiacchierare, discutere sulle loro posizioni, il loro lavoro, eccetera, insomma, venite, raggiungeteci qua al Festival Alta Felicità in Val di Susa. Ricordiamo che anche Radio Blackout ha un banchetto merch, quindi ci stiamo facendo pubblicità, avvicinatevi e se comprate una maglietta avrete la possibilità di mandare i saluti a casa attraverso i nostri microfoni, perché la radio è soprattutto questa. Io penso che siamo in chiusura di questa puntata speciale che abbiamo trasmesso anche su Ponte Radio, diretta dalla Colombia, dai territori liberati del nord del Cauca, liberati dalla comunità indigena NASA, e questo contributo di un compagno da Bogotà. Che dire, grandissima gratitudine per chiunque è intervenuto dall'altra parte dell'oceano qui facendo domande, e grazie tantissimo alle compagne che hanno condotto, tradotto, conosciuto, parlato in questa realtà trasmissione. È bellissimo. È stato bellissimo. È stato molto bello, grazie a tutte, a tutti, a tutto per la partecipazione, grazie in particolare a tutti i compagni che sono intervenuti, alle compagne pure, e continueremo a raccontare dai territori della Colombia e buon festival.